sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro. E chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo. I negozianti hanno il fucile nascosto sotto il banco. I teppisti scorazzano per le strade. E non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede la fine. Sappiamo che l'aria ormai è irrespirabile e che il nostro cibo è immangiabile. Il teatro Ariston corrisponde un po' all'immaginario collettivo della musica italiana. Posto pazzesco qui. Le ombre che vedi attorno a te, questi sono tutti professori d'orchestra. Loro tra poco suoneranno tutte le note di questa serata. Tutte, magari da qualche anno. Il cronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta. E io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Con lui nessuna inibizione, il corteggiamento c'era, io credevo fosse amore. Sì, con lui riuscivo ad essere me stesso. Poi sembrava una gara che faceva meglio il sesso e mi sentivo colpevole. Io voglio che voi vi incazziate. Dovete dire, sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Non ne ho, è tutto questo, in realtà quando uscì il film Quinto Potere, che erano gli anni 70 al 76, in Italia non ci immaginavamo nemmeno che noi avremmo già realizzato questa profezia nel 2009, che già nel 2009 era possibile vedere quello che sembrava una realtà molto lontana alla nostra televisione anni 70. Il commentatore televisivo che in un calo di successo annuncia il suo clamoroso suicidio in televisione, ma questo farà lui di un grande guru, di un maestro di vita, di un trascinatore di folle, di un grande elemento di certificazione del potere televisivo all'interno della televisione, che ne condanna e ne frustra tutti gli aspetti vessatori. La televisione è talmente invasiva, talmente meravigliosa in questa sua fase ultima della sua decadenza, perché è dato ormai per scontato da tutti gli osservatori che la televisione sia morta, non esiste più, non ha più motivo di esistere, non segna più nulla, non rappresenta più nessuna realtà, non crea nessun pensiero. È una sorta di ectoplasmatica maniera di tenere in vita fantasmi di un passato recente della nostra storia personale. È come quella icona fiammeggiante di Mina che cantava all'inizio di questo Festival di Sanremo, che oggi sarà l'argomento su cui vi condurrò, in cui vi cercherò ancora una volta di strappare le vostre confessioni. E visto che l'altra volta vi è piaciuta, vi è venuta bene, vi siete lasciati andare ai vostri più innominabili peccati, ho richiamato Luca Mastrantonio. Buongiorno Luca. Buongiorno. Autore di Razional Popolare insieme a Francesco Bonami, che avevamo tracciato, mi sembra con interesse da parte di chi mi ascolta, un profilo dell'irrazional popolare, cioè di questa maniera meravigliosa di uscire dal mondo, di uscire da ogni complessità, di uscire da ogni confusione e lasciarsi andare a questa sorta di viatico, di trance a poco prezzo, di questa maniera popolare alla portata di tutti di potersi abbandonare a un filo collettivo di confusione gioiosa, guardando Sanremo ieri sera come abbiamo fatto noi, come spero abbiate fatto voi. Abbandoniamoci a quello che è il quinto potere. Perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Perché l'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV attualmente. C'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. La TV è la loro Bibbia, la suprema rivelazione. La TV può creare o distruggere presidenti, papi, primi ministri. La TV è la più spaventosa, maledettissima forza di questo mondo senza Dio. E poveri noi se cadesse nelle mani degli uomini sbagliati. E per questo, poveri noi, che Edward Gia Giolati è morto. Perché questa società è ora nelle mani della Sisi. Diciamo che quello che nel quinto potere viene portato al centro dell'attenzione, già esiste ampiamente, ormai logorato dall'abuso che ne è stato fatto nella nostra televisione. Il gilettismo, il bonolisismo nelle sue forme più eccelse, il criticismo all'interno della televisione, l'autocommiserazione, la pubblica denuncia di guasti della cattiva televisione all'interno della pessima televisione fanno sì che la televisione sia un meccanismo circolare che alimenta se stesso, critica se stessa, analizza se stessa, irride se stessa, ma allo stesso maniera come quei terrificanti mostri ameba della fantascienza che nel vano tentativo di distruggere gli umani usano contro di loro tutti i cannoni possibili, tutte le armi convenzionali che posseggono, anche la bomba atomica, e più sparano sul mostro più il mostro acquista forza e acquista presenza. Questo Festival di Sanremo, Luca, per questo ti ho chiamato, riassume in sé in maniera mirabile, quasi da manuale, quasi poeticamente espresse, tutte quelle caratteristiche dell'irrazionale popolare di cui parlammo proprio una settimana fa. Io inizierei proprio a fare un'analisi cronologica di quello che è accaduto. L'inizio con Mina. L'inizio con Mina era stato lungamente annunciato come se fosse una sorta di epifania, un grande ritorno. La cantante che fa della scomparsa il suo grande valore riappare in questa edizione di Sanremo. Che guarda, noi parlammo giorni fa con Alfredo Saitto, che era un esperto in musica, è stato anche lui un molto tempo anche legato al mercato discografico. Diceva, secondo lui, questa doveva essere la penultima edizione di Sanremo, quella che annunciava la grande gloriosa fine. Il 60° Sanremo dovrebbe essere quello del suo glorioso funerale. E guarda caso, il giorno dopo il direttore di Rai 1 del Noce disse: o la va o la spacca, ce la facciamo questa volta, non ce la facciamo più. Quindi c'è questa sorta di momento epocale, di passaggio. O questo Sanremo dimostra che ancora esiste un valore, rappresenta qualcosa, o morirà. E già questo dà senso all'apparizione del fantasma di Mina. Mina vista soltanto per qualche minuto, un'immagine poteva appartenere a un non tempo, una Mina di oggi, di ieri, di 100 anni fa, una Mina fra 2000 anni, una Mina digitalizzata che non aveva nulla di umano, che però già dava l'idea di qualcosa che già aleggiava fra la vita e la morte, vero? Beh sì, l'impressione era quella dell'avatar, in un certo senso, del lemure. E per quanto riguarda questa poetica veramente irrazionale, diciamo il tassello che mancava al Sanremo come apoteosi dell'irrazionalità è l'apocalisse immanente, che non è imminente, perché in realtà penso che inizieremo dei lunghi ed estenuanti anni in cui ci chiederemo se sta finendo Sanremo, così come ci chiederemo se la Terra veramente agli anni contati, i ghiacci si stanno sciogliendo, entrerà in quel grandissimo, appunto, in quel grandissimo racconto apocalittico che appunto è l'irrazionalità. Questa è la nota quindi additiva di quest'ultimo Sanremo. Entriamo nella fase, nel Kali Yuga di Sanremo. È l'ultima fase delle ere cicliche che ha attraversato il nostro paese, letto al Festival di Sanremo, e quindi Sanremo, che è stato sempre il segno dell'alleggerimento, degli zuccherosi sentimenti legati alla canzone italiana, toccato e lambito soltanto dalla morte e la tragedia in un unico episodio che ancora si ricorda, che è il suicidio di Tenco. Ogni volta si parla di Sanremo dice: ah, c'è stato il suicidio di Tenco contro Retta Berti, come si contrapponessero due mastodonti del pensiero umano. Adesso finalmente Sanremo comincia ad analizzare i segni profetici alla sua fine. Sì, soprattutto ha liberato le paure che forse venivano esorcizzate con questo rito floreale. E infatti le canzoni che abbiamo iniziato a sentire, ma anche dai testi, sono tutte intrise di Dio, raccontano un'Italia allo sbando. La canzone dei gemelli diversi è un'orgia di incubi, aborti, rapine, violenze, prostituzione. Ha veramente liberato forse le nostre paure più profonde. Esattamente come in Quinto Potere il profeta dell'Apocalisse dà alla televisione la responsabilità di compiere, di accompagnare mano nella mano l'umanità verso il suo ultimo destino. E proprio qui, stasera, riparte una storia lunga, lunga, lunga, che conosce tutto quanto il mondo, la storia della musica italiana. Tu lo sai quando nasce questa musica, ma tu non sai quanto tempo fa. Cominciata con i canti gregoriani. I canti gregoriani erano quelli che hanno dato vita alle note. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do. Mi, la, sol, fa, mi, re, do. Quelle le stesse che ho detto io. Io l'ho detta in un senso, tu l'hai detta a scendere. Perfetto. Poi dai canti gregoriani. 800 24 0024, cominciate, via, abbiate forza e coraggio di fare la vostra confessione. Immaginate che siamo arrivati vicini al momento del giudizio universale, perlomeno per l'utente televisivo, e quindi cominciate a fare una sorta di catarsi delle vostre cattive abitudini. Raccontate ieri sera come avete passato la serata davanti a Sanremo, quali pensieri vi ha suscitato, avete sentito Bonolis, come quasi fosse il Festival di Sanremo, anzi il palcoscenico dell'Ariston, una mistica arca di Noè, aveva portato tutta la famiglia, inizia con una bambina a cui racconta velocemente, raccontata appunto in maniera patafisica, la storia della musica mondiale, e poi ogni tanto ci saranno degli stacchi sulla moglie in platea, moglie e sua socia di produzione naturalmente, accanto al direttore del Noce, accompagnato da Miss Italia, simbolica figura di donna fra le donne naturalmente, continui ammiccamenti di Bonolis alle sue pallide e innocenti infedeltà con le vallette, con le cantanti sul palcoscenico, e poi improvvisamente, siccome non c'entravano in nessuna maniera nel copione, appaiono i due figli mediani di Bonolis in piedi che fendono la platea, lui dice: ah, i miei figli in piedi e maleducati, che figura mi fate fare? Così mancava soltanto la nonna e la zia. Era assolutamente, era una sorta sì, di album di famiglia, e io ci ho trovato il Bonolis di Bim Bum Bam anche in questa sorta di rapporto con i... No, c'entrerà Obama, poi ti dirò, te lo lascio come sorpresa perché non ha seguito il Festival di Sanremo. Ma visto che in realtà quando ogni volta che si parla di Apocalisse, di tempi ultimi, si danno cifre precise, ci sono sempre naturalmente i Nostradamus della situazione che numericamente ci dicono quanto manchi alla fine. Per capire quanto manchi alla fine e se le cifre danno conferma o smentiscono quello che stiamo dicendo, ho al telefono l'amico Luigi Ricci. Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti i tuoi spettatori ed ascoltatori. Ecco, Luigi Ricci da circa 70 anni si occupa, esatto, di cifre e di numeri legati agli ascolti televisivi. Questa mattina in anteprima, penso che la notizia sia di pochi istanti fa. Primi a avere i primi dati, eh? Ecco, perfetto. Dice esattamente com'è andato Sanremo, allora, così sapremo. È un trionfo per Bonolis. È andato bene, vedi? È un trionfo, perché rispetto allo scorso anno, nella media dell'intera prima serata c'è stato un recupero di ascolto di 3.400.000. La serata chiusa 10.413.000 telespettatori con 8,31%, ma il dato più interessante è l'età media, che è 52 anni, Rai 1 di età media a 59 anni. L'anno scorso Pippo Baudo si fermò a 7.067.000 con il 36,47%. Ma sai che a questo punto Pippo Baudo starà ordinando la scimitarra per il Karakiri, perché nessuno l'avrebbe detto, io stesso non l'avrei detto, avrei detto: guarda, vedi, Pippo Baudo quest'anno, questa mattina festeggerà champagne. E invece come ti spieghi che non abbiamo avuto questo... Un altro scoop, come sì, direbbe Biscardi, i 16 milioni sfondati da Benigni. Per noi analisti questi dati qui, questi grandi numeri, si hanno solo con la nazionale che vince. Fino alle 23.02 Benigni stava facendo il suo monologo sopra i 16 milioni di ascoltatori, per cui lo spettacolo televisivo rende ancora Sanremo come il primo evento televisivo dell'anno. Quindi a questo punto parlare di Apocalisse in realtà sembra un po' prematuro, è tutt'altro che avviato verso una fase finale, o è il pubblico della televisione che in realtà si incammina insieme al suo rappresentante più eccelso, che è il Festival di Sanremo, verso l'Apocalisse delle proprie intelligenze? Possibile. Senti, un'ultima cosa. Tu guardo anche i dati di Target, così gli under 18, il 40, certamente qui insomma il 45, il 41% degli under 18 stava sull'evento, 18-30, quindi è stato un evento partecipato da buona parte delle tipologie del pubblico e principalmente da quelle che solitamente sono molto lontane dalla programmazione diretta. Senti Luigi, una domanda, non so se tu già hai possibilità di analizzare e scorporare tutti i dati, se c'è tutta la serata davanti, sì, i suoi passaggi. Mi interessava sapere il momento di Povia, come ha funzionato. Non ce l'ho l'orario. Ancora non è arrivato. Era verso... Mi richiamate e ve lo do immediatamente, oppure se hai l'orario te lo dico in diretta. Guarda, ti diamo il tempo di guardare i tuoi dati, ti chiamiamo. Minuto per minuto qui davanti. Sì, ecco. Perfetto, ti diamo l'orario di Povia e poi magari ci chiami più tardi e ci fai sapere, perché è stato un momento fondamentale, era il momento più atteso e il momento più calcato dal punto di vista di insistenza, di tematica alta in un contesto che in realtà dovrebbe essere carezzevole. Grazie Luigi, a più tardi. E a portare il saluto alla canzone italiana, a portare il saluto all'Italia, Un saluto di grande prestigio arriva da parte di un personaggio che ricopre una delle più alte cariche istituzionali nel mondo, il presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'ONU, Miguel Descoto Brockman. Io non so se mi potete dare il collegamento, se lo abbiamo, il collegamento video. Oh, eccolo qua. Buonasera, buonasera presidente. Buonasera, grazie. Grazie Paolo. Sono per il collegamento di essere in diretta con il Festival di Sanremo e con tutti gli italiani. Grazie presidente. Senta, le faccio una domanda, una piccola curiosità. Il suo palazzo è di vetro, fragile, trasparente al contempo. Quanto sono fragili e trasparenti le Nazioni Unite oggi, presidente? Bueno, io credo che Luca, i dati che ci ha dato Luigi Ricci sono dati numerici, inconfutabili, sono il sistema convenzionale di misurazione dell'attenzione del pubblico italiano alla televisione, quindi non vogliamo certo metterli in dubbio. Smentiscono completamente la nostra presa di posizione saccente, snob, intellettualistica, ironica, che avrebbe attribuito a questo festival significati che in realtà il pubblico italiano medio, ma non soltanto medio, un pubblico molto selezionato, hanno fatto centro, hanno beccato tutti i target. Insomma, era il Sanremo che realmente voleva l'Italia in questo momento. Come te lo spieghi? Ma sicuramente il patchwork che è stato creato da Bonolis, la mossa forse più, credo anche dai dati sull'età, più intelligente è stato per esempio coinvolgere Maria De Filippi e mettere tra i big un giovanissimo che è Marco Carta, che ha un seguito tra gli adolescenti incredibile. Quindi in realtà in questo c'è stata, penso, una confezione. C'erano delle piccole bombe orologeria che non abbiamo capito. Che scopriranno, perché penso che comunque la De Filippi nell'ultima serata, con questo suo modello in fondo anti-sesta, anti-gatta morta, sarà comunque una novità. No, De Filippi si porta dietro un seguito incredibile, una sorta di grossa coalizione fatta tra i due personaggi che hanno anche un maggiore appeal commerciale. Ecco, c'è anche da dire che quest'anno Sanremo mette d'accordo tutti, c'era un patto d'acciaio che Sanremo era il Sanremo di tutti, anche per degli assetti che stanno avendo. Anche una delle poche cose che Mentana aveva già deciso d'accordo con l'azienda, di non fare programmazione in questa settimana. Non c'è Chiambretti, non c'è nulla che possa dar fastidio a Sanremo. Non si tocca, un po' perché è vero che è anche un prodotto molto Raiset, quindi forse è il primo Sanremo di assetti anche di potere molto nuovo. In passato, se non sbaglio, fu non proibito ma sconsigliato alla De Filippi di fare un'incursione. E poi io devo fare professione di fede, in realtà per me Mina, anche come lemure, esercita comunque una sua attrazione carismatica. Insomma, mettere nello stesso giorno Mina e Benigni, cioè era un ricatto al quale difficilmente non si poteva cedere, almeno per questa prima serata. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Ecco, siamo qua, cominciamo a raccogliere allora le confessioni, come abbiamo fatto anche l'altra volta. Sì, ma le mie sono di contestazione in questo caso. La prima è su Mina. Io sono una fan di Mina da quando ero bambina. Ma si figuri, io sono un grande ammiratore di Mina. Ho anche avuto l'onore di conoscerla una sera, di andarci anche a cena assieme, sì, figuriamoci. Ho sempre comprato i suoi dischi, sì, nonché CD, eccetera. Ora, ieri mi è venuto questo pensiero. Per quale motivo Mina si deve negare a noi che praticamente acquistiamo i suoi dischi? Vabbè, perché la negazione fa parte di una formula antica come il mondo della seduzione. Certo. Qualunque persona si neghi rappresenta un piacere irresistibile per chi la ami, per chi la desideri, certo, mai concedersi. Però dico, a questo punto, dopo tantissimi anni che lei si nega a noi, non sarebbe il caso di così farci un regalo, dato che noi appunto compriamo i suoi dischi e credo che a un certo punto possiamo anche meritarcelo? Qual è la differenza? Sì, ma qual è la differenza? Ieri, qual è la differenza secondo lei? Perché in ogni caso non si concederebbe mai carnalmente a tutto il suo pubblico, quindi comunque sarebbe sempre un'icona elettronica Mina. La differenza magari tra un video chiaramente preconfezionato, montato, editato, avrebbe voluto vederla in diretta, sempre fantasma digitale, ma in diretta. Certo, certo, però io la sento, cioè la vivo come una negazione e questa cosa mi sono resa conto che mi sta dando fastidio, perché continuo a comprare i suoi dischi però continuo a non poterla vedere. Però continua a comprare i suoi dischi. Appunto abbiamo occasione di vederla in qualche foto rubata sui giornali, eccetera, eccetera. Sì, però la strategia, se vogliamo essere cinici, funziona perfettamente. È un desiderio talmente irresistibile e continua a comprare i suoi dischi. Magari se la vedesse, se la toccasse, se potesse andare a prendersi un gelato assieme a Mina, avrebbe meno voglia, meno desiderio, sarebbero... Perché comunque a me piace veramente tantissimo ascoltare le sue canzoni, per cui non penso che questa cosa, perché già allora quando ero ragazzina che si pensava, che ne so, la musica rock eccetera, io ascoltavo Mina. Grazie quindi... signora. Luca, proprio in conclusione devo dare la linea, il valore di reliquia dei dischi di Mina, di tutto ciò che concede Mina al suo pubblico, secondo me è straordinariamente superiore rispetto a vederla in carne ed ossa. Assolutamente, gli dà un aspetto mesmerico comprare un disco di Mina non potendola più vedere, non potendoci prendere un gelato. È come un'epifania che ogni tanto scende e ci dà la possibilità di godere della grazia di questa cantante che non esiste più carnalmente ma continua a essere presentissima comunque. Caproni, il grande poeta, parlava di asparizione, cioè un modo di apparire e sparire continuo che ci fa rincorrere una sorta di fantasma. 800 24 00 24, questa mattina stiamo facendo un'analisi del Festival di Sanremo come chiave profetica di alcune linee profonde che correrebbero nel nostro inconscio collettivo. Abbiamo iniziato con un atteggiamento colpevole da parte nostra di irrisione, di presa di distanze, di snobistica critica nei confronti di Sanremo, poi ci è arrivato Luigi Ricci, ci ha dato i dati, ci ha detto che è stato un trionfo totale, un'apoteosi, e addirittura ha coinvolto un target ricercatissimo, un programma della TV generalista, che è quello dei quasi giovani o dei giovani adulti, e quindi Sanremo comunque è piaciuto agli italiani, quindi abbiamo fatto un doppio salto mortale e cominciamo a capire perché è piaciuto agli italiani, quali sono le chiavi di soluzione di dilemmi che attanagliano il paese in questo momento, che sono state presentate come se fosse una profezia, come se fosse una sorta di aruspice che ha aperto il ventre pulsante di un animale, guardando nelle viscere ha detto quali sono i motivi e le soluzioni di tutti i dilemmi. Fossi uscito per caso con Ivan Zanicco una sera, capita di telefonarsi, no? Quella poi mi invita a casa, brum, si spoglia tutto, oh, andiamo, fammi quello che ti pare e non finire presto. Iva, io non lo so quanto duro, sinceramente. Ora ci vuole uno lì, potente, forte, uno che abbia una resistenza. Bisognerebbe trovargli uno con le donne bravo, un gladiatore, uno, ci vorrebbe per lei uno... Silvio, Ivan Zanicchi è nel PDL, no? Se tu potessi, siccome lei richiede delle cose non trova in giro, però ci vuole uno che tu c'hai i doti da amateur, tutto il mondo lo sa, insomma, che Silvio Berlusconi e Ivan Zanicchi sono trovati in una macchina con i sedili ribaltabili da 3 giorni che erano lì, sono stati presi mentre Berlusconi si alzava dopo 3 giorni, Ivan Zanicchi gli dice, de già! Non finire presto, Silvio, non finire presto! Roberto Benigni è stata la punta più alta dell'attenzione. Roberto Benigni in sé potrebbe rappresentare una soluzione. Strano, noi ci dicevamo con Luca Mastrantonio, con me in studio, dice, ma guardate, ma singolare che Benigni, un giorno storico della fine, del crollo totale di ogni attesa di sinistra politica in Italia, il giorno in cui Berlusconi se ne va, si dimette, tutti piangono, gli stati a lutto, un momento di tragedia. Lo stesso giorno in cui c'è la sentenza a David Mills, quindi un momento in cui proprio Berlusconi non è nel suo momento peggiore, lui fa una satira anti-berlusconana, buona, carezzevole, nemmeno cattiva, in fondo gli dà del trombatore, che è un grande complimento per il nostro leader, quindi gli dice sparisci come spariva Mina, ma è un ammiccare. Però con Luca ci siamo, in realtà in sé è già una grande soluzione. Abbiamo visto Veltroni si dimette, si comincia a parlare di leadership provvisoria, di passaggio di testimone, un fuggi-fuggi, ma la risposta era in Sanremo ieri. È Benigni, il nuovo leader del PD. I numeri ce li ha, 16 milioni sono una dote importante. Sa dialogare con Berlusconi perché l'ha trattato coi guanti di velluto. quindi essenzialmente forse lui ha preferito lasciar stare qualsiasi argomento di sinistra per consegnarsi ad una transinistra, cioè ad una sinistra pronta in fondo ad abbracciare tutto. Poi in realtà ieri ha anche toccato alcuni argomenti molto delicati, che erano di difficile maneggio in una compagine come quella del Partito Democratico così variegata, come quello dei Dico, dei Pax, dell'omosessualità e via dicendo, l'ha abilmente aggirata e poeticamente espressa, quindi potrebbe mettere d'accordo tutti. L'ha spalmata come... Perché legge Dante piace ai vescovi, quindi diciamo ha una grande copertura da un certo punto di vista. Allo stesso tempo è piaciuto a Grillini perché gli ha sdoganato, gli ha messo una pecetta sulla cosa di cui parleremo poi, della canzone politicamente scorretta di Povia, quindi mette d'accordo le due anime della sinistra. È incredibile che nel giorno del funerale politico di Veltroni in realtà appunto venga... Ci sia quasi una cerimonia che sia l'apoteosi di quelli che volevano essere i sentimenti ecumenici o che gli venivano attribuiti a Veltroni. Ma poi bello, casca il leader, cade il capo e Benigni, che è stato il suo diciamo giullare, andava in giro tutta la campagna elettorale, se l'è portato dietro per le borgate, così invece al trionfo. Spernacchia simpaticamente il vero re d'Italia. È ancora più triste il momento di Veltroni, che pensa, ieri sera nel salottino in casa avrà sua, visto, se... con tutte le angosce che aveva, poverino, lo immaginiamo e partecipiamo al suo dolore, vede Benigni, il suo comico, il suo portavoce ironico e satirico, nel momento del trionfo con il nemico, tutto sommato. Sì, che fa una scena di sesso automobilistico, bucolico, con una rappresentante del popolo delle partite IVA, che quindi ha risolto... Anche il problema dell'IVA. Il problema dell'IVA l'ha risolto con una così sorta di invocazione di un Viagra politico. Ecco, forse Benigni è un Viagra dolce per la sinistra italiana, per il PD. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Vediamo anche lei la sua confessione relativa al peccato che ha consumato ieri nel divano di casa sua. Allora, devo dire che vado un po' contro tendenza, nel senso che... Innanzitutto era da solo con altri? No, ero da solo. Vabbè, il peccato solitario è altrettanto grave quanto quello consumato assieme diciamo, a altre persone. Non ero da solo, ma la persona che stava con me non seguiva molto, quindi... Ma quindi non era un atto d'amore? Programma... No, ci deve essere partecipazione reciproca, se no è imperfetta l'unione. Beh, prego, andiamo avanti. Dicevo, voglio dire una cosa che forse era un po' in controtendenza. Per me Sanremo non è molto, anzi non è cambiato praticamente per niente nel format, cioè l'offerta è più o meno sempre la stessa, molto ben confezionata quest'anno, con dei tempi decisamente più rapidi, con più musica rispetto ai tempi morti, con una scelta dei cantanti che copriva una fascia di età dagli adolescenti alle persone più anziane. No, ma se va bene, oggi la televisione è un meccanismo scientifico, quindi se va bene sono stati messi gli elementi giusti nel posto giusto. Sono stati messi gli elementi giusti nel posto giusto e quindi Sanremo per me non è cambiato assolutamente per niente, nel senso è migliorato nell'offerta non cambiando il suo format. E è specchio di quello che Sanremo è stato molti anni e va benissimo così, questo dal punto di vista commerciale. Poi se si parla dal punto di vista musicale ognuno diciamo ha i suoi gusti, ha le sue opinioni. Ma quello mi sembra l'ultimo dei problemi. Mi sembra proprio l'ultimo dei problemi nel merito di Sanremo. Se ci rifacciamo al film molto nominato prima nelle varie discussioni, sì, quindi al prodotto televisivo che tenta di cambiare o che cambia o che influenzi molto Sanremo, direi che non influenza nessuno, nel senso è un prodotto musicale confezionato molto sì, bene. Sì, non influenza nessuno perché è la supposta di glicerina per chi ha già l'influenza, quindi va bene a tutti. Non trasmette virus, ma mantiene in vita chi già ormai è affetto da quell'influenza. Assolutamente, cioè l'intervento di Benigni piacevolissimo, è paragonabile a tanti interventi di tanti comici più o meno irruenti come poteva essere Grillo una volta, ma comunque il format è quello, l'intervento è stato azzeccatissimo da persona molto amata e che sa dire con discrezione ed ironia cose anche forti. Ma è chiaro che la lettura di Mastrantonio e mia non ha nessun valore assoluto, rappresentiamo una sciatta e presuntuosa minoranza nell'opinione pubblica del paese, quindi quello che noi diciamo è semplicemente un gioco mentale, un gioco intellettuale. Sanremo è stato percepito esattamente come dice lei. Grazie Stefano. Roberto? Pardon? Roberto? Sì, ci sono. Ecco, innanzitutto come, dove, in che maniera, con quante persone? Da solo col mio cane, ma il cane si è addormentato. La bestialità è una delle colpe più riprovevoli. Rasenta, rasenta il satanismo, eh? No. Il suo cane cosa ha visto con grande attenzione? No, ha visto Canale 5, ha preferito guardare Canale 5. Ah, beh, eravate lì a reti non unificate, ma divise. Sì, ha visto il RIS, che forse era... Oggi c'è una protesta dei radicali per le sevizie che subirebbe il cane del commissario Rocca, quindi probabilmente le sarà chiesto al suo cane presto di firmare una petizione contro i maltrattamenti che si fanno al cane. Io aspetterei a cantare Vittoria, perché 10 milioni del martedì della prima serata... No, secondo me, io sono sicuro che già da stanotte scenderà la... Beh, aspetti, ci sono delle frecce importanti ancora all'arco del festival. Non è che finisce. Era Roberto Benigni, ma non ce ne sono altre frecce importanti. Beh, ancora la De Filippi ancora è un bel peso, eh. Come, non l'ho sentito? La De Filippi, diciamo, ancora è una... sabato, pure la De Filippi, vabbè, che porta i tronisti la De Filippi, cosa fa? Non lo so. Beh, ma ha detto niente. Tutti i sudditi dei tronisti. Il culmine di ogni... Anche il palco molto compresso, no? No, la scenografia era bella. Era abituato al palco vecchio di Sanremo. No, se vogliamo, la scenografia, diciamo che rispetto a quelle precedenti, aveva un tratto, secondo me, innovativo abbastanza rispetto a quello che si era già visto. Comunque, come vedo, ognuno ha la sua percezione personale di Sanremo. Finiamo con Giuseppe. Giuseppe? Sì, buongiorno, salve. 30 anni. 30 anni, sì. Anche lei ha consumato il suo peccato serale davanti a Sanremo? Sì, l'ho consumato da solo sul divano di casa. Ma tutti da soli? Ma sì, dove sì, sono finite le famiglie italiane? E rende il dato più importante il fatto che... Confesso fosse... comunque di non averlo visto tutto, perché dovevo andare a giocare a calcetto. Tra l'altro sono anche stato espulso. Ma ci va di notte fonda a giocare a calcetto? Sì, mettono questi orari terribili. Comunque io volevo semplicemente mettere in correlazione Sanremo con un altro evento mediatico che si è consumato qualche giorno fa, che è il Grande Fratello. E secondo me il successo di Sanremo di ieri sera, questo successo, è dovuto anche al fatto che si sia dato come una risposta a quell'altra trasmissione durante la quale si è veramente consumato una tragedia, quando da una parte su Rai 1 c'è il dibattito perdente su Eluana, poi le vicende collaterali di Mentana, e questo enorme successo che invece ha incontrato il Grande Fratello. Mi pare che ne abbiamo già parlato, l'enorme successo è determinato proprio dal fatto che dopo settimane di ipocrisie, di persone che prendevano parte su una questione delicata e anche abbastanza triste, chiaramente usata strumentalmente, non ne potevano proprio più, e la sera stessa di Vespa con l'intervistatrice che dice alla suora lanci un ultimo saluto a Eluana, la suora dice Eluana ciao ti saluto, così è chiaro che la gente si va a vedere il Grande Fratello. 800 24 0024, stavamo analizzando insieme a Luca Mastrantonio in questa pausa in realtà il successo clamoroso, straordinario, inimmaginabile, forse anche fomentato dal fatto che tutti se la sono sentita di seguire, di dare corpo all'appello di Fabrizio Del Noce, guardate Sanremo che può essere l'ultima volta, come uno dice mi suicido, mi butto dal Colosseo come Alberto Sordi nell'americano a Roma, per impedire che si sfracelli al sole, guardare il poco cervello sparpagliato di questo grande festival, tutti sono stati davanti al divano, chi con il cane, chi da solo, chi con le scarpine chiodate in attesa della partita di calcetto. Però è anche, non si può fare a meno di vedere, questo è il primo risultato concreto del patto di sangue Rai Mediaset contro Murdoch. Sì, appunto, prima così, visto che giocavamo anche sulla politica, è proprio una grande coalizione, perché Bonolis e la De Filippi sono i pezzi da 90, come si dice. Sono i Giano Bifronte che vanno bene per tutte e due. Vanno bene per tutti, però anche Bonolis ha una grandissima capacità didattica e didascalica, quasi da qua, di prendere per mano appunto una bambina e spiegarle l'evoluzione. Mettere la bambina è stato incredibile. Sì. È un gesto scorrettissimo, ma funzionale. Assolutamente, capito? Come nelle pubblicità ci sono sempre bambini. Con le sue ditine che suonava quel pianoforte. Forte, incapace di suonare, che alla sua età c'è gente che già suona sinfonie, comunque la bambina che suona al pianoforte, tutti sono stretti. È stato un dolce ricatto, giustamente ricordavi. Come dire, date un pezzo di panna a questa povera bambina. Esatto, permettetele di suonare un giorno, di dimostrare che è brava. E poi effettivamente... Come il Santino con il bambino negretto che dice aiutami a distare, la stessa cosa. E la sfida all'OK Corraldi di Del Noce ci ha messo tutti di fronte a salviamo un bene pubblico, sintonizziamoci su Sanremo. È anche nostro. Beh, andiamo a un punto fondamentale. Questo Sanremo, la vera chiave di lettura di tutte le cronache da mesi prima di cominciare Sanremo è la famosa canzone di Povia dedicata allo sfinocchiamento del suo amico Luca. Poi non si sa se questo faccia parte della sua biografia. È stato detto tutto il contrario di tutto, che giustamente ha suscitato le ire di chi si sente portatore di tutta la pubblicistica, di tutto l'immaginario, di tutto ciò che riguardi comunque i comportamenti sessuali non legati all'ortodossia eterosessuale, e quindi naturalmente su Povia è creato un caso. Noi abbiamo già capito che era stata anche in questa meravigliosa melassa di Vogliamoci Tutti Bene e Teniamo Forte perché rimanga la televisione viva e centrale, l'operazione di preventiva di Benigni. Benigni ha già messo le mani avanti, ha già fatto il rito riparatorio prima ancora che si compisse l'effrazione. Quindi Benigni ha dedicato la parte ultima della sua meravigliosa prolusione, della sua candidatura a leader del Partito Democratico, appunto riparando ciò che avrebbe poi infranto Povia. Gli omosessuali ci hanno dato dei doni enormi. Enormi, e io gli sono grato, così come gli eterosessuali. La stessa... Aspetta, no, non era un discorso. Dico, e allora voglio dire, per rendere l'idea, dico, di quello che, di cui stiamo parlando, l'assurdità, ma davvero la ridicolaggine a volte. Voi immaginate, gli omosessuali sono stati seviziati, torturati, morti nei campi di concentramento. Sapete perché? Perché amavano un'altra persona. Non c'è delitto più infame. Giustamente tocca delle corde civili che è impossibile non condividere, parla delle persecuzioni avvenute alle persone omosessuali, del diritto di amare chi si voglia, punti di arrivo della nostra civiltà che non possiamo non condividere, e arriva ancora di più poi a toccare una nota poetica profonda citando la vicenda di Oscar Wilde, del suo disastroso processo subito, del suo amore disperato e della sua prigionia. C'è un gelato cortesemente durante l'interruzione pubblicitaria, perché questa canzone ha generato molte polemiche. Con grande signorilità devo dire, il dottor Grillini dell'Arcigay è venuto a chiedermi la parola. Io mi auguro, gliela do con la fiducia di un uomo verso un altro uomo. Prego. Io volevo dire semplicemente questo. Questa è una canzone che ha creato molti problemi, ha fatto arrabbiare il movimento, la mia associazione, l'Arcigay. Semplicemente volevo leggere a voi, a Povia, che magari ha elementi per riflettere, e anche a Bonolis, questo messaggino che mi è arrivato da un grande amico durante l'esibizione di Benigni. Caro Franco, ho visto Benigni e ho pianto nella mia solitudine, pensando al mio compagno scomparso da poco. Avrei voluto abbracciarlo fortemente. Grazie Benigni e grazie a te, Franco. Mario Pozzato, da Milano. C'è stato tutto un incrocio di messaggi mediatici. Mentre Benigni leggeva l'accurata lettera di Oscar Wilde nella carcere di Reading al suo amico, fidanzato, innamorato, poi nemmeno mi sembra troppo corrisposto, Alfred Douglas, lettera struggente in cui parla della vecchia madre, dell'amico, dell'amore immortale, ci potremmo comprare una casetta in Sicilia, sarebbe la cosa più bella del mondo. La telecamera inquadrava Grillini in platea che annuiva quando poi scuoteva il capo invece quando cantava Povia. Poi Grillini ha avuto anche il microfono, quindi c'era una sorta di combin, perché queste cose non accadono per caso, in uno spettacolo come Sanremo non si dà il microfono a uno in platea se tutto non è scritto a copione, quindi il copione prevedeva che ci fosse la riparazione preventiva, poi ci fosse la canzone di Povia, poi ci fosse la prolusione di Grillini, che non pago di poter parlare anche lui al suo momento di network personale, legge l'SMS sul suo cellulare. È il tipico, la struttura del panino, no? Maggioranza, opposizione, maggioranza. In questo caso possiamo dire che c'è una maggioranza gay friendly al potere, quantomeno al potere immaginifico di Sanremo. Beh, l'SMS siamo già in un altro format, ecco, forse siamo già in amici, forse siamo già in altro, non è solo Sanremo, come diceva l'ascoltatore prima, ricordo i format precedenti, ma in realtà sta cambiando per cercare di sopravvivere, e questo sicuramente forse è un punto di svolta, perché è già qualcos'altro. Se si legge in diretta un SMS di Grillini che contestava preventivamente una canzone, siamo già comunque oltre. Sì, si dimostra poi che esiste una sorta di cross-medialità, di un messaggio forte. Grillino ha già pronto l'SMS del suo amico, un'altra storia triste, toccante, di cui abbiamo massimo, certo, rispetto, però un'altra storia toccante nella storia toccante. Quindi era l'attualizzazione nella cronaca contemporanea dello stesso dramma di Oscar Wilde, separato da un suo compagno, da una circostanza tragica. Beh, è meraviglioso. Drammaturgicamente è perfetto. Devo dire, insomma, chapeau perfetto agli autori. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Io ho sentito prima che avete detto che questo festival ha avuto degli ascolti altissimi e questo mi stupisce, perché adesso lei mi dirà che faccio della demagogia, ma quanto ci è costato questo festival agli italiani? Perché vabbè, questa no, è fare demagogia, no. Dice una cosa sciocchina, è una delle poche cose che riporta soldi in cassa, guardi. No, ma se per fare ascolto bisogna prendere la mina, bisogna rispolverare la mina, bisogna chiamare Benigni. Si fanno i salti mortali. È la colpa di chi è? No, la colpa è di nessuno, voglio dire. A parte in un momento economico come siamo adesso, spendere tutti questi soldi solo per fare un po' di... Sì, ma guardi, la televisione è una macchina imprenditoriale, spendono soldi per guadagnare soldi, non è che ci rimettono. Ma io non so, bisogna vedere se si guadagna. No, ma stia tranquillo, che Sanremo, almeno Sanremo, dal punto di vista di conto economico, è inattivo, almeno quello. Come i manager che hanno ridotto il mondo, perché poi Bonolis si può paragonare a questi manager che... Sì, ma se Bonolis fa ascolto, sono tutti contenti, quindi è giusto pagare Bonolis. Se ci andassimo io e lei a Sanremo, no, ci prenderebbe la pomodoro in faccia. Costa il festival in tutto, capisci, agli italiani, perché bisogna vedere alla fine quanto costa questo festival con tutti questi personaggi. Sì, ma perché quanto costa? Qual è il problema? Scusi, di quanto costa? Se funziona, fa parte di un accettato onere degli italiani che pagano il canone. Sì, ma questo lo diciamo noi, anche le ferrovie funzionavano, l'Italia funzionava e fallita, cioè... Andiamo di questo passo per fare poi un festival che era, sembrava un festival dialettale, perché Bonolis parlava in romanesco. Guardi, io le faccio veramente un grande onore, siamo in chiusura di trasmissione, resumo per lei un accessorio di questa trasmissione che fa più male a me che a lei. Mi sta ascoltando? Sì. No, parli, continua a parlare, così viene meglio. No, niente, io dicevo, un festival... Ci voleva esattamente... E tristemente lo faccio, perché a me duole e fa veramente male sentire le membra stritolate di un ascoltatore che esprime un giusto giudizio, però la motosega, ahimè, implacabile, segna la giustizia di quello che è accaduto ieri. E in conclusione cosa devo dirvi? Sono rimasto senza parole. Luca Mastrantonio, avevi previsto te, venendo questa mattina la mia telefonata all'ultimo momento, che sarebbe accaduto questo a Sanremo? In una battuta. C'era un presentimento, speravo di no. Ma forse era scritto nel DNA di Bonolis, da De Filippi e di noi italiani. Sic transit gloria mundi. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.